Noi non abbiamo mai cambiato idea, noi abbiamo firmato un contratto preliminare con Winjet che prevedeva che loro facessero determinate cose. Niente di tutto ciò che noi avevamo richiesto si è avverato entro il 29 giugno. Nonostante questo abbiamo aspettato altri 20 giorni lavorativi, come da contratto, discutendo con loro quotidianamente per trovare un'altra soluzione. Faticosamente siamo arrivati al 2 agosto, dove abbiamo trovato un accordo che comunque snaturava l'accordo iniziale, ma sul quale eravamo disposti ad andare avanti. Anche su quello non ci sono arrivate nessuna delle garanzie, delle cose che erano collegate a quell'accordo, solo insulti, solo insinuazioni. A un certo punto finisce la pazienza e si chiude, ed è così.